Il fatto che della terapia escogitata dal professor Di Bella contro alcune tipologie di tumore si parli come di un cocktail testimonia ancora una volta del successo di questa curiosa metafora. Tracce del suo uso nel significato odierno sono già riscontrabili in Italia prima della fine del secolo scorso. Con il trattino tra le due componenti è presente già nell'edizione del repertorio generale glossario delle voci ed espressioni speciali agli Stati Uniti del Nord di Gaetano Frisoni, stampato a Genova nel 93, ed è ivi definito come bibita composta di una mistura di diversi liquori. Più tardi negli anni 20, a testimonianza di quanto venne in auge, con il nome di cocktail party si denominò un'occasione sociale tipicamente americana in cui pare d'obbligo una distribuzione a 360 gradi dell'attenzione fino al limite della stolidità, un'occasione che, prendendo la parte per il tutto, in Italia si finì col designare soltanto cocktail. Con il bere, con gli alcolici, con il bere alcolici in compagnia, a dire il vero la parola ha poco a che fare, perché cock sta per gallo e tail per coda, dunque il significato proprio sarebbe coda di gallo, significato proprio. Stando a quanto affermano Cortellazzo e Zolli nel loro dizionario etimologico, la metafora fu applicata per la prima volta ai cavalli bastardi, che evidentemente sfoggiavano code non in linea con i paradigmi della razza. L'analogia si estese poi ad un intruglio fatto da acqua e alcol e più tardi ancora ai composti più ricchi, perfino a quelli privi di alcol. Panzini, che nel suo dizionario moderno si dichiara tanto ligio al potere da registrare le parole dettategli personalmente da Benito Mussolini, a ulteriore prova dello stretto rapporto che intercorre tra lingua e ideologia, Panzini propose di sostituire il cocktail con l'arlecchino, ma a quanto può parere a noi oggi gli andò male. Ordinare un arlecchino è presumibilmente vano, perfino credo al bar del Piccolo Teatro. Riflettendoci si comprende come la metafora palliativa fosse condannata in partenza, anche a prescindere dall'anglofilia. Nell'abito di arlecchino figurano sì tanti colori, ma rimanendo ben separati l'uno dall'altro, cosa che non avviene nel cocktail. In uno degli scorsi pomeriggi stavo passeggiando con Anna e con Papere quando ci è venuta incontro una simpatica bambina che si trascinava un incantevole cucciolotto. Papere è uno di quegli esseri viventi cui il cinema e la televisione hanno rovinato non poco l'esistenza, perché essendo un collie tutti quelli che la incontrano la chiamano Lassie, con un'accentuazione strascicata della prima vocale ad indicare un riconoscimento gioioso a cui peraltro la nostra canina non trova giustificazione. Il nome di un cane è notoriamente un affare delicato, ma non solo per chi glielo dà, come è risaputo, ma anche per chi lo riceve. La simpatica bambina, tuttavia, conosceva Papere e proprio perché ne conosceva anche il carattere affettuoso e ben disposto verso chi si affaccia da poco alla vita, voleva presentargli il suo cucciolotto. Ai primi convenevoli curiosi sono seguite le feste e i contatti di rito. Lì, sul marciapiede, mentre la gente passava, ad un dato momento si ferma una signora, guarda con attenzione e simpatia i due cani, la nostra Papere ormai cinquenne, il pargoletto ballonzolante guidato dalla sua padroncina, e dice: un bel cocktail. E la bambina pronta ha replicato: il mio non è un cocktail. Risolino della signora e fine della storia. È vero, il nome di qualche razza di cani finisce per tail, come bobtail, ed è vero che a qualsiasi insieme formato da due elementi cui si conferisca statuti epistemici diversi può essere assegnato il nome di cocktail. La metafora della signora era strutturalmente corretta, anche se non aveva preso in considerazione un fatto decisivo: le operazioni analogiche da lei compiute non potevano essere compiute da tutti i suoi interlocutori, molto difficilmente per esempio dalla bambina, che vive un'età in cui un cocktail può essere ancora il nome di una razza canina. La signora dunque ha il torto ideologico fondamentale di parlare soltanto per una selezione di astanti, secondo un modello classico che prevede il bambino materialmente presente come socialmente assente. È uno di quei torti che, cronaca nera alla mano, viene spesso raddrizzato poi in malo modo. La reazione della bambina, tuttavia, stando all'etimologia, ha un che di prodigioso. Ribattere prontamente che il suo cucciolo non era affatto un cocktail, oltre che la sacrosanta rimostranza per un'esclusione subita, era anche un modo forse inconsapevole per evitare che gli si desse del bastardo.